fatti un esame di coscienza. Fat MC, Nash, Soft. Vienimi incontro a braccia aperte, che mi serve il tuo sostegno. Disperde un po' di sdegno e non gioca freccette su me col tiro a segno. Come d'abitudine fa la responsabilità, quando sussurra all'orecchio dovere in quantità. E mo che si fa, non credi sarebbe meglio aprire un libro invece di poltrire? Fai patire, ti ho avvertito. Me ne sbatto, sputa sentenze che non sei altro. Il tasto che ti spegne non c'è purtroppo, non basta manco l'alcol. Forse quella voce consigliera anche ragione, dovrei essere più calcolatore, suggerisce lei. E ora cosa faccio? Metto in prosa il mio distacco, penso un giorno forse parto. Prendo tempo nella messa in atto, stanco ma resisto con un occhio a mezz'asta, con mezz'ora di ritardo e con un occhio di riguardo in tasca. Basta, adesso chiudo la porta, mi sto stancando. And now? Non lo so, ma il domani sta già bussando. Fatti un esame di coscienza, chiediti se vivi senza, chiediti se la realtà per tutti gli altri sia diversa. Quando poi sarai solo sopra un foglio ad aspettare, sarà lei a farti partire, parlarti di ciò che è male. Fatti un esame di coscienza, chiediti se vivi senza, chiediti se la realtà per tutti gli altri sia diversa. Quando poi sarai solo sopra un foglio ad aspettare, sarà lei che parlerà, ma potrai non ascoltare. Puoi non ascoltare la tua coscienza, ma Sleeper's Mixtape volume 1 lo devi ascoltare. Sleeper's Mixtape volume 1, altrimenti sei un coglione. Un coglione. Ma ti prego non parlarmi, non ascolti i tuoi consigli per fermarmi. Non mi dire quando farlo, perché lo farò più tardi. Tu, dolce verità, sussurrata dentro i lobby, cerchi di farmi capire, migliorarmi dagli errori. Ma qua senza senso di rispetto per la gente adesso, giro con il mio sorriso dicendo che son depresso. Non ho mai pensato a te, io non so come ti chiami, e non ho mai sprecato tempo per capirti negli esami di coscienza. È una specie di latenza che mi tenta, stare attento a chi si inventa parole di fantascienza. Ho la pazienza di chi pensa, di chi ne ha sentite tante, mentre parlo col mio gatto, non con il grillo parlante. Siete insetti, consigli sussurrati negli orecchi, ma purtroppo per voi tuoi ascolto solo questi specchi. Qua zero concetti, tante barre e pochi risi, fra la mia coscienza vomita e sgomita in questa crisi. Fatti un esame di coscienza, chiediti se vivi senza, chiediti se la realtà per tutti gli altri sia diversa. Quando poi sarai solo sopra un foglio ad aspettare, sarà lei a farti partire, parlarti di ciò che è male. Fatti un esame di coscienza, chiediti se vivi senza, chiediti se la realtà per tutti gli altri sia diversa. Quando poi sarai solo sopra un foglio ad aspettare, sarà lei che parlerà, ma potrai non ascoltare. Perdo coscienza e conoscenza per vivere qui, fino a scordare quale delle due si scriva con o senza i. Un grillo parlante mi stressa, i miei grilli per la testa gliene andate così tante che non parla più, povera bestia. Ora ne sento la mancanza, soprattutto quando schiaccio forte il pedale, perdo il controllo e sbando. Il male è dietro l'angolo, la linea che lo separa dal bene sottile, io ci sto sopra come un funambolo. Saresti da psicanalizzare come quella di Zero. Mi pressi, ma so che dite non ne posso fare a meno. Mi tieni a freno se ti senti sporca, mi tormenti al punto che ti cucirei la bocca. Averne troppo vuol dire farsi problemi che non esistono. Chi non ce l'ha i problemi non sa in che cosa consistono. Non ti va mai bene quello che faccio, lo sai che c'è. Ti do una penna, un foglio, il prossimo testo lo scrivi te. Fatti un esame di coscienza, chiediti se vivi senza, chiediti se la realtà per tutti gli altri sia diversa. Quando poi sarai solo sopra un foglio ad aspettare, sarà lei a farti partire, parlarti di ciò che è male. Fatti un esame di coscienza, chiediti se vivi senza, chiediti se la realtà per tutti gli altri sia diversa. Quando poi sarai solo sopra un foglio ad aspettare, sarà lei che parlerà, ma potrai non ascoltare. Passiamo a uno screening delle sue caratteristiche psicologiche. Parliamo pure liberamente per conoscerci meglio. Allora, quale crede che sia il suo maggior pregio? La sincerità. E il suo principale difetto? La sincerità. Qual è la sua più grande aspirazione? La sincerità. La sincerità. E allora mi dica, qual è il reddito annuo della sua famiglia? La sincerità.